Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata da Deborah Rosciani, bentornati a Salva Danaio. Mutui, prestiti, incubo rate e scadenze, la fase acuta della crisi nel 2008 aveva portato, come ricorderete, molte famiglie a chiedere l'interruzione del pagamento di mutui e prestiti o quantomeno di rinegoziarne le condizioni. A distanza di 2 anni la crisi morde ancora, riguarda un po' meno il credito erogato a famiglie e imprese, ma si fa sentire perché molte famiglie, questo ormai è diventato il nostro richiamo più importante anche in Salva Danaio, molte famiglie hanno avuto una modifica piuttosto radicale delle proprie condizioni perché in qualche nucleo familiare qualcuno è rimasto a casa dal posto di lavoro, per cui è un tema che naturalmente bisogna sempre ricordare. Ha colpito molto l'indagine diffusa ieri dalla Banca d'Italia che ha analizzato il rapporto mutuo-famiglie. Ne emerge un tasso di insolventi del 5%, appena poco inferiore a quello spagnolo, dove le famiglie che non pagano il mutuo e che sono insolventi rappresentano il 5,5%. Peraltro è un dato che si riferisce, noi stamattina lo preciseremo bene, alla situazione che le famiglie italiane vivevano nel 2007, per cui la situazione, secondo molti opinionisti che molti giornali hanno interpellato per le inchieste su questo dato appunto diffuso ieri, ritengono che la percentuale potrebbe essere aumentata proprio in virtù del fatto che dicevo prima, perché mentre nel 2008 in pratica, tra il 2007 e il 2008, quello che è successo è che le rate dei mutui sono schizzate per l'aumento dei tassi di interesse, adesso i tassi di interesse sono più tranquilli ma le famiglie non riescono a pagare il mutuo perché non percepiscono reddito, per cui la situazione di preoccupazione è inevitabilmente rimasta e probabilmente questo potrebbe aver portato ad un aumento di questo tasso di insolventi. Detto questo, ancora non sappiamo perché indagini più aggiornate non ne abbiamo. Noi oggi commenteremo questi dati, però abbiamo anche un altro voluminoso rapporto da esaminare nel dettaglio che ci dà in realtà uno spaccato un po' diverso. È il rapporto sul credito alle famiglie 2010 diffuso nei giorni scorsi dal gruppo Unicredit, dalla divisione specializzata nei finanziamenti ai privati e alle famiglie. E in questo rapporto emerge che l'approccio verso i consumi e l'indebitamento è complessivamente diventato da parte delle famiglie italiane più prudente, più attente. Chi sottoscrive un prestito lo fa non tanto così per spendere e andare a sperperare questo prestito per il nuovo televisore per una bella vacanza alle Maldive, ma proprio in un'ottica di sostegno alle esigenze familiari, e quindi anche questo è un tema da commentare stamattina attentamente. Tra un po' ci raggiungerà in studio il collega del Sole 24 Ore Maximilian Cellino, che ha curato proprio l'analisi dell'inchiesta di Banca Italia diffusa ieri. Il titolo del Sole 24 Ore è record di insolvenze sui mutui degli italiani, e abbastanza forte è stato anche il titolo dato da Repubblica: mutui, il 5% non riesce a pagarlo. Addirittura la Stampa stamattina dedica a questo argomento l'apertura, la prima pagina: mutui casa, famiglie a rischio, il 5% non riesce a pagare le rate, single con figli e precari, le categorie più colpite. E poi altri 2 ospiti, ovviamente parlavamo del rapporto di Unicredit sul credito alle famiglie, stamattina ne abbiamo il responsabile della business unit di Unicredit appunto specializzata nei finanziamenti a private e famiglie, la Household Financing, Raffaele Cicala. Dottor Cicala, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi c'è anche chi studia perché per lavoro si occupa proprio della parte, chiamiamola così, è un brutto termine, adesso non me ne viene un'altra, patologica, diciamo, di quelle famiglie che non riesce a far fronte agli impegni finanziari mensili. Non parlo solo di prestiti e mutui, parlo anche di bollette, perché anche quelle qualche volta si lasciano indietro. E allora, per farci dare anche qualche indicazione su come gestire bene il budget familiare quando la situazione comincia a diventare un po' precaria in famiglia, abbiamo interpellato un amico di Salva Danaio che è Gianpaolo Luzzi, autore di molti libri interessanti. L'ultimo è Siamo tutti debitori, come proteggere la nostra famiglia dai debiti e vivere economicamente sereni. Gianpaolo Luzzi, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno Rosciani, buongiorno ai radioascoltatori. Ovviamente, microfoni aperti alle vostre riflessioni all'800 24 0024, oppure scriveteci al 349 238 6666 per raccontarci un po', se volete, la vostra situazione, se è cambiata, se con il mutuo la situazione è diventata difficile. Noi vi abbiamo aperto molto spesso i microfoni perché abbiamo parlato anche della moratoria sui mutui che è stata organizzata dall'ABI e dalle associazioni dei consumatori, peraltro scade adesso a dicembre, per cui chi vorrà chiedere l'interruzione del pagamento del mutuo, se nel proprio ambito familiare si è verificato un evento sfavorevole, potrà farlo entro il 31 dicembre di quest'anno. Però è stato anche attivato il fondo di solidarietà sui mutui e anche in questo caso appunto un'opportunità che si è aperta per chi è schiacciato dalla rata, e in questo caso è dal 15 novembre che si è aperta appunto la possibilità di inoltrare alla propria banca la domanda per eventualmente chiedere il sostegno del fondo di solidarietà. Tutto questo ne parleremo tra poco. Adesso rapidamente la borsa, cosa succede oggi? C'è un quadro contrastato che vede in difficoltà Francoforte, perde lo 0,03%, mentre sono positive le altre piazze europee. Milano guadagna lo 0,49% per gli acquisti molto forti che anche stamattina stanno riguardando proprio le banche, ma soprattutto i titoli assicurativi che già ieri hanno trainato la seduta. Fondiaria più 6,70, Banca Popolare di Milano più 4,20, Azimut più 3,33, Unipol più 2,88, Intesa più 2,20, Unicredit più 1,77, Monte dei Paschi più 1,76, Mediolanum più 1,58. In discesa segnaliamo Ansaldo meno 3,31, Pirelli meno 2, Bulgari meno 1,54, Finmeccanica meno 1,48. Euro su dollaro a 1,3209, vigorosa marcia indietro della moneta unica europea sul biglietto verde che gli analisti attribuiscono ancora rinnovati timori sul debito sovrano dell'economia dell'Eurozona. Insomma, la motivazione è sempre questa e porta sulle montagne russe le divise. Noi lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e ritorniamo su prestiti e finanziamenti e sulle difficoltà delle famiglie italiane a far fronte al pagamento delle rate. Gli italiani, si sa, sono tradizionalmente un popolo di risparmiatori che si indebita malvolentieri e preferisce contare su basi certe nella gestione del patrimonio familiare: mattone, polizze, liquidità. Nel nostro paese è già di per sé poco propenso al credito al consumo, utilizzato per il 12% delle spese, una delle percentuali più basse in Europa, la crisi non poteva che rafforzare ulteriormente la tendenza. Per contro, le banche, per tutelarsi, hanno selezionato con più severità i parametri per concedere prestiti. Secondo l'ultimo rapporto sul credito delle famiglie di Unicredit, la domanda si è spostata infatti verso una clientela più solida, soprattutto laureati o diplomati, con redditi più alti e senza un affitto da pagare. Questo sta anche a significare che allo stesso tempo il ceto meno abbiente non riesce più ad accendere un credito in banca. Segnali non proprio rassicuranti, quindi, se si tiene anche conto che secondo Banca Italia una famiglia su 20 tra quelle che contraggono un mutuo non riesce a onorare l'impegno delle rate e si rivela insolvente. E come se non bastasse, stando all'ultimo rapporto Censis sulla situazione sociale del paese, risulta che il 7,8% di chi si trova a sostenere un prestito dichiara di non essere riuscito a rispettare le scadenze previste. Il 13,4% lo ha fatto con molte difficoltà, il 38,5% a fatica. A soffrire di più sono le famiglie con un solo genitore, ma anche le coppie con figli. 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande, per le vostre riflessioni, che ci potete rivolgere anche al 349 238 6666. E come sempre accade, questo è un tema che scatena subito i nostri ascoltatori. Volevo cominciare subito con Raffaele Cicala, lo ripresento, responsabile Household Financing, per adesso la dico all'inglese, poi abbrevierò notevolmente, dottor Cicala, il suo incarico. In sostanza è responsabile dell'unità di Unicredit specializzata nei finanziamenti a privati e alle famiglie. Ovviamente ci piacerebbe sentire che cosa emerge da questo vostro rapporto, perché ne emerge effettivamente un atteggiamento verso l'indebitamento più responsabile, più prudente da parte delle famiglie, ma dobbiamo anche, per onestà intellettuale, ricordare che anche le banche sono diventate un po' più severe del passato nell'erogare credito a famiglie ed imprese, quindi in sostanza due fattori che si sono messi insieme. E allora le chiedo, quando lei legge su tutti i giornali questa mattina di questo numero crescente di famiglie insolventi con il mutuo, che cosa, insomma, che riflessioni le vengono? Ma guardi, innanzitutto ringrazio per la domanda e per l'argomento, perché è importante secondo me chiarire sempre più un po' per tutti, per il pubblico largo e per tutti, diciamo, chi tiene allo sviluppo di questo paese, che cosa sta succedendo e che cosa possiamo fare di positivo ciascuno di noi. Faccio un attimo un passo indietro sulla domanda, sul rapporto, e arrivo poi agli articoli di questa mattina, perché sono tutti elementi molto coerenti tra di loro. Col rapporto, in effetti, noi che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto guardare in modo approfondito che cosa stava succedendo agli italiani, il comportamento degli italiani, perché siamo partiti dall'Italia e dal credito al consumo, non dai mutui, ma con l'idea di estendere poi questa ricerca al mondo dei mutui e di estenderla anche agli altri paesi europei per vedere, di fare dei confronti, ma sostanzialmente se e che cosa era cambiato nel comportamento degli italiani, nella domanda nei confronti del credito. Quindi le conclusioni che sono state riprese prima, assolutamente corrette e precise, viene fuori che dal 2007 al 2010 il mondo degli italiani si è comportato in modo molto più cautelativo. Ovviamente ci sono sempre i due lati della medaglia, no? Come enfatizzato prima, però diciamo quello che dice la nostra ricerca è che sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi, quindi oltre il 60% di chi domanda il credito, e prima ancora che le banche abbiano fatto la loro selezione, è sostanzialmente fatto da persone che sono appunto più solide. Quindi più solide l'abbiamo misurato in modi diversi, no? In termini di reddito, di patrimonio, in termini di non dipendenza per esempio dal pagare un affitto, livello di istruzione, quindi capacità di comprendere e articolare la propria posizione finanziaria, quindi degli elementi che per noi sono positivi perché ci dicono c'è un mercato sano, ci sono delle persone che riescono a distinguere bene, e soprattutto dal punto di vista degli operatori e del paese, c'è una parte del paese che è ancora forte, ci sono molte persone che sono innovatori tra questi, perché abbiamo cercato di dare un volto, oltre a guardare di numeri, abbiamo cercato di dare un volto ai diversi tipi, e sono molto diversi, di italiani che si avvicinano al credito, sono persone sulle quali il paese può contare, che sanno usare il credito per generare crescita, questo non bisogna dimenticarlo, è estremamente rilevante, perché altrimenti rischiamo di guardare l'aspetto solo gli aspetti negativi e patologici. Tra l'altro, mi scusi se la interrompo, dottor Cicala, quello che va anche precisato quando poi diamo lettura delle indagini che vogliamo commentare, che ovviamente il vostro monitoraggio nasce appunto proprio dal monitoraggio della vostra clientela. Quando parliamo invece dell'indagine di Banca Italia, qua parliamo di un quadro più complessivo. Banca d'Italia chiaramente esamina ciò che succede nell'ambito di tutto il sistema bancario, per cui è chiaro che poi non si possano neanche mettere a confronto completamente indagini che hanno una natura, un'origine, una genesi completamente diversa. Io fra un po' devo già andare alla prima pausa. Le posso chiedere dunque un commento rispetto a quello che si legge stamattina sui giornali, dottor Cicala? La spaventa è comunque un'indagine che è ormai troppo indietro nel tempo, perché risale a 3 anni fa, e dal 2007 ad oggi, data anche la prorompenza della crisi, sembra essere passato un secolo, oppure ancora dobbiamo avere un po' di preoccupazione? Io glielo chiedo dal punto di vista bancario, quando elargite del credito, insomma, siete diventati più severi e quindi cercando di fare in modo che questo 5% possa essere in qualche maniera contenuto, non lo so. Direi che non mi preoccupa l'indagine, è vero quello che lei dice, legge dei dati oramai del 2007, dice due cose e sono chiare anche negli articoli di stamane. La prima è che l'Italia è un paese molto particolare, nel caso del mutuo c'è sempre un po' una corsa, c'è sempre stata anche in quegli anni una corsa al tasso più basso e quindi al tasso variabile. Inevitabilmente quando i tassi di riferimento, l'Euribor cresce, è quello che è successo. Tra il 2005 e il 2007 l'Euribor è risalito, le persone vanno in difficoltà perché hanno preso un credito immaginando per tutta la vita del mutuo di avere una rata bassa, che invece può essere salita. Questo è un problema strutturale del mercato italiano, Banca d'Italia più volte l'ha messo in evidenza molto lucidamente e molto correttamente. Quindi l'analisi è corretta e un po' si riferisce appunto al passato, come dice lei. Sul futuro invece, sulle nuove erogazioni, io credo che ancora una volta sia i clienti sia le banche sono diventate più cauti da una parte e più sagge dall'altra, perché chiaramente hanno imparato sulla crisi anche le banche, hanno imparato anche i clienti e si stanno adottando dei comportamenti più cautelativi, e quindi sul futuro e sulla capacità di continuare a erogare credito, buon credito, sono assolutamente più ottimista. Ecco, naturalmente sperando anche che contemporaneamente anche le riprese, la ripresa delle imprese sia lo stesso, nella stessa misura intensa, e che i posti di lavoro tornino ad essere ben distribuiti appunto fra le famiglie, in modo tale che possiamo parlare in futuro sempre meno di questo problema, ma ancora non ne siamo completamente convinti. Devo già andare in pausa, è arrivato intanto Maximilian, poi sentirò anche Giampaolo Luzzi, e tra pochissimo. Eccoci ritrovati ancora a Salva Danaio stamattina per commentare un po' il rapporto tra famiglie italiane e rata. Volevamo commentare stamattina in origine, racconto anche l'origine della trasmissione, il rapporto sul credito alle famiglie 2010 di Unicredit, che ci spiega che in realtà è emerso da questa indagine fatta appunto un miglioramento del profilo della domanda di credito da parte dei clienti di questa banca. C'è addirittura un reddito mediamente più elevato fra i richiedenti di credito, quindi un approccio anche più prudente. Chi chiede un prestito lo fa in un'ottica di sostegno alle esigenze familiari. Naturalmente, preparata la puntata, cosa viene fuori? L'inchiesta della Banca d'Italia, che dice che invece tra le famiglie che chiedono un mutuo, questa è un'indagine relativa alla situazione del 2007, il 5% di queste non riesce ad onorare la rata. Maximilian Cellino. E allora, noi abbiamo precisato nella prima parte della trasmissione, non era ancora arrivato, un po' i contorni di questa inchiesta, come nasce. Il tema è che nel 2007 ancora la crisi non era esplosa e in questi ultimi tre anni la crisi è esplosa. C'è il pericolo che questo 5% possa essere un 6, un 7, un 8 oggi? Il pericolo sì, oddio, quando si va a parlare di cifre, di singole cifre, è un po' un terreno un po' delicato, perché queste cifre non rendono poi l'idea delle difficoltà che hanno le persone, perché questo 5%, se poi si pensa al basso livello di indebitamento delle famiglie italiane rispetto anche al resto d'Europa, non sono probabilmente un problema per l'intero sistema. Perché ricordiamo che le famiglie italiane in larga parte hanno la casa, esatto, di proprietà già, esatto, da prima, insomma, del periodo in cui il credito è diventato un po' più generoso. E questa poi, indagine però, si riferisce a un 5% su un 13% delle, esatto, famiglie che fanno, esatto, sottoscrizione poi, delle però, finanziarie. È un problema quando si pensa alle difficoltà delle singole famiglie. Non sarà un problema sistemico, ma è un problema per quelle famiglie. Detto questo, mi chiedevi se il 5% può essere aumentato. Dal 2007 in poi sono successi diversi fatti, probabilmente ne avrete già discusso. Intanto i tassi di interesse si sono abbassati, almeno quelli sui mutui variabili, e quello era un po' il problema che si aveva nel 2007 e poi nel 2008. Nel 2008 soprattutto. Questo sì. Quindi era un problema contingente, diciamo, del momento. A questo però si è aggiunto un problema strutturale, che è semplicemente la perdita del lavoro, la crisi e la conseguente perdita del lavoro da parte di molte famiglie. Se si guarda nell'indagine, già allora una persona su cinque senza lavoro faceva fatica a pagare il mutuo, e io dico che forse anche poco, perché senza lavoro non so come si faccia a pagare un mutuo. E quindi in questi ultimi tempi ci sono state questi due effetti, sommandoli insieme io vedo un pochino più preoccupante la situazione di adesso, perché appunto è un problema non legato agli alti e bassi dei tassi di interesse, ma un problema legato proprio alle condizioni al mercato del lavoro, che sono più complicate da risistemarsi. In più, probabilmente ne avete parlato, c'è da dire che dal 2008 in poi sono state molte iniziative a sostegno di chi ha perso la rata, di chi ha perso il lavoro, moratoria, fondo di solidarietà, la stessa surroga che permette di trovare una banca che fa condizioni migliori, e questo in parte potrebbero aver alleviato almeno momentaneamente i problemi di alcuni, perché si rivolge a chi ha perso un lavoro. Nell'articolo di questa mattina facevo riferimento a una lettera che è stata inviata, ne arrivano diverse purtroppo da un lettore che sosteneva che lui aveva un lavoro a tempo determinato, guadagnava 1000 euro al mese e il mutuo a 800 non riusciva a pagarlo. Ecco, questa persona paradossalmente non può aderire né al fondo di solidarietà né al piano famiglie dell'ABI, quindi perché ha dei il lavoro problemi. Ce l'ha, infatti, anche se la domanda in realtà vera di questo caso ce lo raccontavamo anche a microfoni spenti, e come abbia fatto questa persona ad ottenere un mutuo che gli impone il pagamento di una rata da 800 euro quando il suo reddito percepito mensilmente netto è di 1000 euro. Questo probabilmente è un altro fatto, esatto, anche se la persona aveva probabilmente un reddito diverso quando ha ottenuto il mutuo, oppure ha trovato una banca un po' troppo accondiscendente. Perché deve essere stato radicalmente diverso: 800, esatto, euro, minimo praticamente un terzo del reddito, 816, almeno 2500 euro doveva entrare nelle tasche di questa persona all'epoca della sottoscrizione del mutuo. Detto questo, voglio sentire Virginia dal provincia di Varese e poi vado a Giampaolo Luzzi. Virginia, buongiorno. Buongiorno. Che cosa le suggerisce tutto quello che stiamo dicendo stamattina? Ma io sono d'accordo con quanto ha detto il vostro ultimo esperto, perché comunque io mi sono trovata nella situazione che ho acceso un mutuo nel 2006. Ho avuto una crescita comunque della mia rata da pagare per circa un anno, e poi dopo per me è stato solo che un miglioramento, perché comunque nel momento in cui i tassi di interesse si sono abbassati, la mia rata si è abbassata e quindi avevo solo che ho avuto un miglioramento. La cosa invece che a me sembra veramente paradossale al giorno d'oggi è che se io ai tempi nel 2006 aprivo un mutuo, io potevo avere uno spread, quindi la parte di ricarico della banca dell'1,3, quando invece se vado oggi ad aprirlo perché mia sorella mi ha chiesto uno, gli chiedono il 3-4%. Sì, e forse... per me questo è paradossale. Tra l'altro, Virginia, guardi, io la ringrazio per essere arrivata a questo punto del tutto casualmente, perché questo è peraltro proprio l'aspetto che dà l'origine all'inchiesta, Maximilian, della Banca d'Italia. Non è che la Banca d'Italia ha voluto fare una verifica, ha preso dei dati di Eurostat, dell'organismo statistico europeo, non è che ha voluto fare un'indagine su quante famiglie sono insolventi, ha voluto solo dimostrare un rapporto su il profilo di credito delle famiglie che chiedono un mutuo e l'onere che la banca chiede a queste famiglie. A seconda del rischio di credito, l'onere è un po' più alto. Da lì poi è arrivato a questo 5%, se non ho capito male la dinamica dell'inchiesta. Sì, esatto, la discussione, diciamo, il cuore della discussione non era quanti fossero in Italia le famiglie in difficoltà, ma era qual era la reazione delle banche. E d'altra parte è uno studio, un working paper, come si chiamano in gergo, quindi uno studio che vuol far riflettere in qualche maniera sul comportamento delle banche in base alla differente rischiosità del cliente, quindi in sostanza l'applicazione di spread, cioè di un ricarico sul tasso Euribor o IRS più elevato per chi è più in difficoltà rispetto a chi è meno in difficoltà. Poi dopo questo andavano a analizzare tutta la situazione dei mutui in Italia e anche in Europa. Sul discorso dei differenti comportamenti, il discorso degli spread è molto ampio, perché nel 2007 non c'era stata la crisi del sistema finanziario, le banche potevano fare delle condizioni molto migliori. La crisi del sistema finanziario, che ricordiamoci, è nata proprio non in Italia, ma è nata proprio sui mutui, è nata proprio su certi comportamenti dei mutui. Alcuni strumenti che le banche emettevano per poter dare mutui a migliori condizioni, e quelle famose cartolarizzazioni, salsicciotti, ABS, RMBS, non voglio ricordare tutta la storia, adesso non le possono più fare, e il risultato è anche questo, in parte, che le banche non possono più applicare quelle condizioni più favorevoli. Detto questo, il 3-4% mi sembra molto alto. Provi a guardare, perché magari anche al di sotto del 2% si riesce ancora a trovare qualcosa. Gianpaolo Lusi, finalmente vengo a lei, avrei pensato per tutta la trasmissione, ma mi ha invitato per scherzo stamattina, però magari poi la ripeschiamo in un'altra occasione, la valorizzerò di più. Allora, ha scritto tanti libri, tra questi Come non pagare i debiti e vivere felici, naturalmente il non è tra virgolette, quindi è un non ironico, e anche Siamo tutti debitori, come proteggere la nostra famiglia dai debiti e vivere economicamente sereni. È chiaro che senza debiti saremmo tutti quanti felici, c'è però una forma di finanziamento delle esigenze familiari che è sana, che naturalmente ci può anche così aiutare a vivere serenamente ogni mese, perché invece di sottrarci tutto un importo magari per ristrutturare la casa, perché non posso pianificare un po' serenamente questa spesa enorme per la mia famiglia. C'è però anche tutta la parte patologica, che è quella che le capita di gestire, perché lei viene chiamato dalle aziende e dalle banche, ma anche dalle società che per esempio distribuiscono gas ed energia elettrica, perché anche le bollette rimangono a volte un po' indietro. Con tutto quello che abbiamo detto questa mattina, insomma, qual è la sponda della sua riflessione? Ma due cose, velocissimo. Intanto i dati di Banca d'Italia sono superati, perché appunto l'avete detto, si riferiscono al 2007, che era l'epoca, ricordo, in cui si davano in maniera trionfale i dati di crescita dell'indebitamento a due cifre, no? Per cui, e che già all'epoca, quando qualche volta veniva invitato da lei, Rosciani provava a dire: guardate che però per strada, e per strada intendo quando chi si occupa del lato patologico del credito, cioè il recupero, la gestione del recupero, si sta avvertendo che la cosa non è così trionfale. Mi fa piacere che 3 anni dopo, insomma, e dico anche ufficialmente, la cosa viene detta. Sì, i mutui hanno fatto scoppiare la crisi in America con i subprime nel 2007, poi 2008 è seguito quello che è seguito. Io vi dico che da medico del pronto soccorso, perché alla fine questo mi tocca fare, se si domanda a un medico del pronto soccorso cosa ne pensa dei motorini, in effetti non ha una visione serena, ma comunque ma ha una visione puntuale quantomeno di quello che gli accade tutti i giorni. Da medico del pronto soccorso vi dico che il boom del recupero e delle difficoltà fu allora, quando c'era il trionfalismo, no? di come si cresceva, sembrava inarrestabile, andava tutto bene. E poi effettivamente dopo, fra le moratorie e fra il fatto che soprattutto i tassi sono poi drasticamente diminuiti, l'ha appena detto l'ascoltatrice che mi ha preceduto, la gente ha cominciato a respirare. Vorrei, così non mi prendete per antipatico, che poi alla fine il ruolo mio è sempre quello, ma tutto questo ottimismo che c'è attualmente, se è possibile, senza si offenda nessuno, tirare una secchiata d'acqua fresca, perché guardate, c'è più ottimismo che numeri che lo confermano. Tutto questo sentiment, che è importantissimo, è fondamentale, non c'è dubbio, si vede nell'ambito appunto per dire del recupero, col fatto che magari i debitori si sbilanciano di più nel voler cercare di risolvere la situazione, ma poi le aziende in crisi effettivamente molto spesso non consentono di adempiere gli impegni presi. Effettivamente nel periodo di grande ubriacatura la gente con 1000 euro, un lavoro precario, si è andata a prendere un mutuo pagando 800 euro al mese, e qualcuno gliel'ha dato questo mutuo qui. Hanno fatto mettere firme chiaramente a mamme, nonne, vicini di casa, zii, però gliel'hanno dato perché all'epoca si premiava. Infatti, Luzi, io devo fermarla, poi le faccio completare il ragionamento, solo perché devo andare ai suggerimenti perché in viaggio e sono adesso in ritardo. Io sposo perfettamente quello che dice, lo dicono anche molti ascoltatori che ci attribuiscono anche la responsabilità di aver 4-5 anni fa essere stati ben contenti, insomma, di vedere tutto questo boom. Sarà stato così. Io onestamente, di aver tanto sorriso, non me lo ricordo, mi sembra di aver fatto esattamente quello che facciamo adesso, di raccontare le tendenze come si manifestavano. Detto questo, però, è anche vero che le banche, quando sono molto facili nell'erogare prestiti e finanziamenti, va bene a seconda della fase in cui lo fanno. Negli ultimi 3 anni hanno stretto i cordoni della borsa perché non c'era più trippa per gatti, perché tutti erano diventati un po' più a rischio e sono stati tutti quanti colpevolizzati anche per questo atteggiamento. È chiaro che poi la verità sta sempre nel mezzo, bisognerebbe sempre mantenere un atteggiamento equilibrato a seconda delle fasi economiche che si attraversano, ma quanto è difficile. Però a tra poco. Vado da Raffaele Cicala di Unicredit per fargli rispondere un po' anche alle provocazioni lanciate al sistema nell'ultimissima parte della nostra trasmissione, perché comunque dal vostro rapporto un quadro abbastanza positivo, Cicala, emerge. Insomma, un po' adesso non voglio dire che utilizzate dei toni trionfalistici, però il miglioramento del profilo della domanda che evidenziate. I richiedenti del credito, secondo il vostro osservatorio, hanno dei redditi mediamente più elevati della media, e grazie che a quelli date del credito, perché se non avessero niente non si presenterebbero neanche allo sportello della banca a chiederlo, pensando di non averne alcuna dignità. Insomma, ritorniamo un po' sulla terra, ci aiuta oppure davvero ci sono i presupposti per essere così abbastanza sereni del periodo che attraversiamo, Cicala? Guardi, volevo aggiungere 2 punti cogliendo la sua domanda, ma anche per sintetizzare tutti gli interventi che mi sembrano assolutamente corretti e che però sono coerenti tra di loro. Tra il vecchio e il nuovo, ribadisco, il nuovo, dove lo spartiacque è sicuramente il 2008, dal 2008 in avanti sia il mercato sia le banche hanno cominciato a fare cose diverse. Sul nuovo io rimango ottimista, perché stiamo facendo meglio le banche e i clienti si comportano in modo più oculato rispetto a prima. Quindi che sia credito al consumo, che siano mutui, in entrambi i casi, ripeto, sul nuovo, quindi le nuove, i mutui erogati e prestiti, io penso che rimango ottimista e dobbiamo rimanere, tra virgolette, positivi, perché c'è stato un miglioramento. Sul passato, Anche lì però, per ricordare, due cose importanti sono state sollevate. Il primo, il tema del variabile. Quando le persone corrono, i clienti corrono dietro tasso variabile in Euribor bassi, in periodi di Euribor bassa, e non pensano a quando risalgono i tassi, lì ci sarà sempre un problema. Mm. Secondo, quello della disoccupazione. No, posso anche dire che nel 2008 è salito in una maniera schizofrenica per una crisi inaudita ed inedita, per cui non è che mai nessuno avrebbe... Ma Maximiliano Cellino già non è d'accordo con me. Comunque, detto questo, lo lascio concludere, Cicala. Però invece sul tema della disoccupazione, allora, quello sì è un indicatore sul quale dobbiamo stare molto attenti tutti quanti. Io lì penso che, allora, realismo, non ottimismo, vedo i dati di recupero anche nostri. In realtà noi del 2008 ci siamo un po' svegliati presto e abbiamo messo in piedi un programma che abbiamo chiamato Insieme 2009, che poi è diventato il Piano ABI, perché abbiamo capito che andava trattato in modo diverso una patologia che sarebbe diventata, ahimè, veramente importante, quella della disoccupazione. E quindi, invece di accanirsi con il passato, con i metodi di recupero del passato, cercare di avere molta più flessibilità. Ecco, su quello posso dire che i nostri dati sono assolutamente confortanti, perché ben più della metà di quelli che noi abbiamo aiutato, nell'arco di tempo che gli abbiamo dato, hanno ritrovato un lavoro, sono rientrati in positivo. Allora, io sono realista, cioè guardo quello che è stato il successo di questi piani. Sicuramente, se l'economia va male, se il tasso di disoccupazione peggiora, dobbiamo stare tutti quanti un po' più preoccupati. Prima, esatto, perché questi piani termineranno, il primo sta già andando a scadenza a fine anno, e chissà se, come sta succedendo per la moratoria per imprese, anche per questo appunto non si prevederà in qualche maniera una sorta di proroga o di, insomma, allungamento, anche se a condizioni diverse. Ne stiamo discutendo, comunque ciascuna banca ha sempre l'iniziativa, la possibilità di prolungarlo, guardi, quindi... Infatti, esatto, l'iniziativa individuale anche del rapporto tra direttore e cliente, noi cerchiamo sempre di suggerire anche questa strada, anche se negli ultimi tempi è stato un po' difficile, perché poi ci sono state iniziative di sistema e molta indipendenza individuale dei direttori è stata un po' più difficile. Antonello da Foggia, rapidissimo, se ce la fa, la ringrazio, perché questo è un bel punto di vista il suo. Salve, buongiorno. Può abbassare la radio cortesemente? Mi sente? Sì, deve abbassare la radio perché sentiamo tripla voce con l'eco. Grazie. Mi volevo ricollegare a quello che ha detto poc'anzi sul ragazzo che aveva il contratto a termine su 1000 euro con un mutuo da 800. Sì. Io dico che le banche hanno sempre fatto degnamente il loro dovere se si applicava la regola del mutuo fondiario, quindi il 35% del reddito netto per poter accedere al mutuo. Mi chiedo, qualcuno ha controllato i documenti fiscali che sono stati presentati dal richiedente del mutuo illo tempore? Perché dico questo? Perché negli ultimi anni gli istituti di credito si sono affidati a grossi network, a grosse banche, ove non c'era un tale controllo per poter verificare se realmente i modelli fiscali presentati dai richiedenti erano reali e compatibili per poter acquisire degli immobili. Sappiamo che c'è stata una responsabilità, un ruolo anche della mediazione creditizia a volte in questo contesto, che ha facilitato molte pratiche. Ecco, più che nella mediazione creditizia, quella, diciamo, da persona fisica, quella dei grossi network che hanno contribuito a questo. Io credo che una verifica negli archivi delle banche per verificare se quel 5% derivi quasi all'80% da questi grossi network ci potrebbe aiutare tanto. Antonello, la ringrazio. Allora, qua io sono indecisa, ci mancano 3 minuti, non so che fare, perché vorrei dire 3000 cose e non riusciremo a dir niente. Giampaolo Luzzi, chiudo, le faccio completare il discorso che aveva iniziato prima per chiederle anche, così, non dico un messaggio rasserenante perché ho già capito che non lo vuole dare, ma quantomeno un'indicazione di buonsenso alle persone che ci ascoltano, fra quelle che sono in difficoltà e quelle che magari ancora non lo sono, ma sono tentate dall'indebitarsi. Stiamo attenti a quello che facciamo e non facciamo il passo più lungo della gamba. Sì, e questa è una cosa abbastanza scontata. Più che altro, chi ha un debito adesso in corso e ha delle ansie, delle difficoltà, che prenda contatti e cerchi un attimo di gestire la propria situazione in una maniera più manageriale possibile, soprattutto che prenda contatti con i creditori, esponga le situazioni che ha. Effettivamente ci sono tutta una serie di strumenti reali, veri, concreti, al di là di quello che è la moratoria, al di là di quello che poi sono le leggi, ma comunque la maggior parte delle banche, insomma, Unicredit in testa fra le altre cose, con una sensibilità proprio specifica che ai clienti onesti, ma che hanno difficoltà e oggi sono la prevalenza, perché sono di più sicuramente le persone che vorrebbero ma non riescono a pagare. Ecco, queste persone qui devono prendere contatti con i creditori, troveranno delle soluzioni che magari non se l'aspettano nemmeno, ma devono chiedere, devono parlare e devono uscire fuori dal guscio, non devono rimanere rinchiusi nella propria non devono incagliare le situazioni, perché poi rimetterle a posto è più complicato. Poi non dico che ovviamente anche prendendo per tempo la situazione spesso si risolva, però insomma qualche volta aiuta. Allora, dopo voglio fare una battuta finale con Cicala, prima però devo andare avanti con la nostra nuova rubrica, Le parole della previdenza, una rubrica nuova appunto che vi proporremo ancora per diverse settimane con la collaborazione dell'INPS, che ci aiuta a capire proprio quali sono le parole del sistema previdenziale italiano. In questi giorni a spiegarcelo il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. La parola che abbiamo scelto oggi è requisiti minimi. Il requisito contributivo minimo per avere diritto alla pensione di vecchiaia è di 20 anni di contributi. Per raggiungere tale obiettivo, oltre alla contribuzione da attività lavorativa, si può utilizzare la contribuzione volontaria. In linea generale, per ottenere l'autorizzazione occorre aver versato almeno 5 anni di contributi riferiti a qualsiasi epoca, oppure 3 anni nei 5 anni precedenti la domanda. Il requisito può essere perfezionato anche mediante il cumulo dei contributi versati in diverse gestioni. In realtà non riesco a far intervenire nessuno, solo una cosa, Raffaele Cicala, ci sono degli ascoltatori che ci segnalano, dite al funzionario di Banca Unicredit di essere un po' meno severi alle aziende a cui chiedono i rientri dei fidi. Mi raccomando, disponibilità in questo periodo. Ne posso strappare una promessa? Lo so, prendiamola a ridere per alleggerire un po'. Lo so. L'intervento del collega precedente è il più oculato. Un dialogo buono aiuta tutti. Benissimo. Siamo molto in attesa di ricevere chiunque. Benissimo, io vi ringrazio, so che avremmo dovuto affrontare tanti altri argomenti, ci stanno scrivendo in tanti ascoltatori che volevano intervenire per raccontarci della difficoltà di dialogo che hanno con le banche adesso per la sospensione del mutuo, per aderire al fondo di solidarietà e per chiedere ancora la moratoria. Prima di Natale, Maximilian, lo sai che tornerai qua e rifaremo ancora una puntata anche su questi argomenti. Grazie a tutti, Salvadanaio torna domani, buona giornata.